Salva Danaio di Deborah Rosciani. Signature event in our transformation. È un evento epocale nel nostro percorso di trasformazione. Pensiamo sia un accordo vantaggioso per i dipendenti, per gli azionisti e per la clientela di entrambe le società. Through our partnership we've already accomplished so much. Attraverso la nostra collaborazione abbiamo già raggiunto molti obiettivi e chiaramente le opportunità che si aprono ora davanti a noi sono molto significative. Io sono incredibilmente ottimista su dove possano arrivare insieme Microsoft e Nokia con i loro dispositivi e strumenti. Stiamo lavorando, siamo entusiasti. L'operazione ci dà grande energia nel perseguire il nostro sogno comune, ossia di avere successo nell'innovazione nel settore degli smartphone. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Ieri siamo partiti con Barack Obama, qualche volta ci capita di partire con il Presidente del Consiglio italiano Enrico Letta. Oggi con chi siamo partiti per il nostro programma? Con Steven Ballmer, il numero uno di Microsoft, ormai diciamo che è in procinto di lasciare questa azienda, lo farà nel giro di 12 anni, ma comunque ha voluto spiegare, lo avete sentito anche nel brano che vi abbiamo proposto, appunto in che cosa, qual è stato lo spirito della grande operazione che è stata comunicata nei giorni scorsi. Adesso ve la ricorderemo e vi ricorderemo anche come da qualche giorno ci sia molto fermento nel settore tecnologico internazionale. Ieri è arrivata proprio questa notizia, per certi versi clamorosa per gli addetti ai lavori, era nell'aria, ma è stata comunque una notizia di forte impatto sui mercati. Parliamo dell'acquisizione da parte di Microsoft dei cellulari di Nokia. Pochi giorni fa poi era arrivata un'altra notizia, quella della vendita da parte del colosso anglosassone Vodafone della quota del 45% di Verizon Wireless, il maggior operatore mobile degli Stati Uniti, alla casa madre Verizon, un'operazione che porterà molta liquidità in casa Vodafone, movimentando tutto il settore delle telecomunicazioni. E già in molti pensano che operazioni a breve potrebbero coinvolgere anche l'italiana Telecom. Sono temi che interessano i consumatori italiani perché in tutte le nostre case c'è un prodotto della tecnologia. Quelle di cui parliamo non sono solo notizie di carattere finanziario, ma sono notizie che hanno anche un impatto, o forse lo avranno a breve, nelle nostre abitudini. Novità che si susseguono in un periodo in cui, crisi o non crisi, un numero sempre maggiore di italiani non sa rinunciare allo smartphone o al tablet, che in molti casi sono disponibili a prezzi molto accattivanti. E allora, detto tutto questo, Salva Danaio oggi ricostruisce questi importanti casi di mercato e al tempo stesso raccoglie domande e testimonianze degli ascoltatori che sono alla ricerca del prodotto tecnologico più moderno e al tempo stesso della tariffa più conveniente e corrispondente alle proprie esigenze. Per intervenire sul tema di oggi 800 24 00 24 se volete chiamarci ed intervenire in diretta, oppure potete scriverci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook, su Twitter. E dopo avervi ricordato tutto questo, saluto gli ospiti con i quali parleremo di questi argomenti. Luca Salvioli del Sole 24 Ore, benvenuto. Grazie, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. E ben ritrovato anche ad Alberto Mazzetti, fondatore ed amministratore delegato di SOS Tariffe, che è un comparatore appunto di tariffe in tantissimi settori. Oggi naturalmente ci focalizzeremo su ADSL, telefonia appunto e cellulari e quant'altro. Buongiorno Alberto, benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Prima di tutto questo però, visto che ieri questa operazione Microsoft su Nokia ha movimentato molto il mercato, vediamo se questo succede anche oggi o se le borse europee hanno scelto altri temi su cui focalizzare l'attenzione. Eh sì, a Piazza Affari diciamo che si parla di tutt'altro, si parla di questa nuova possibile crisi di governo, insomma ormai è, come dire, il tema che tiene in ostaggio gli investitori che vorrebbero più o meno puntare sull'Italia da qualche settimana. Adesso questo spettro riesce di nuovo dall'armadio e oggi Milano è la peggior piazza d'Europa. Poco fa, lo ricorderete, nel collegamento del giornale radio il FTSE MIB è arrivato a perdere oltre 2 punti, adesso riduce un pochino la perdita, ma mica tanto, -1,88%. I titoli peggiori: Telecom, del quale peraltro parleremo tra po', -4 punti percentuali. Banco Popolare, -3,92. Mediaset, -3,76. Banca Popolare dell'Emilia Romagna, -3,73%. A2A, -3,41. Qua abbiamo un plotone di titoli molto folto, appunto, che perdono circa 3 punti percentuali. Pochi i gruppi positivi: Finmeccanica in rialzo dell'1,07%, Atlantia più 0,21% e Parmalat più 0,08%. È proprio una giornata di malumore per gli investitori che riprendono appunto ad uscire dal mercato azionario italiano. Lo spread fra BTP e Bund, nonostante la nuova tensione politica, tutto sommato possiamo dire che tiene, siamo a 246 punti base, ma in rialzo rispetto a ieri. Un'occhiata alle altre piazze europee. Meno 0,8 Parigi, meno 0,7 Francoforte, Londra meno 0,59, stasera il Beige Book della Federal Reserve, il rapporto periodico della Banca Centrale Americana, ma soprattutto gli occhi verranno puntati nelle prossime ore sulle riunioni delle banche centrali. Domani abbiamo appunto a Francoforte la riunione della BCE e le dichiarazioni poi che seguiranno da parte di Mario Draghi nella conferenza stampa che segue la decisione sui tassi sul futuro della politica monetaria nell'Eurozona. Direi che per la borsa è tutto, però in qualche maniera rimaniamo sui mercati finanziari e parliamo appunto delle recenti operazioni che hanno galvanizzato il settore tecnologico internazionale. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Nokia e Microsoft camminavano a braccetto già da un po', con un accordo che prevedeva l'esclusiva per la piattaforma Windows Phone sugli smartphone Lumia. La notizia, arrivata ufficialmente nella prima mattina di ieri in Europa, da molti era attesa e prevista. 7,17 miliardi di dollari. Con questa cifra vengono acquistati la divisione device e servizi di Nokia e la licenza sui brevetti. Il colosso finlandese, insomma, passa nelle mani degli americani, con l'Europa che fa un passo indietro nel mercato dell'elettronica e in particolare della tecnologia mobile, lasciandola in mano a Cina, Corea e Stati Uniti. Questo a poche ore da un altro annuncio importante: la vendita della quota del 45% di Verizon Wireless, il maggior operatore mobile negli Stati Uniti, alla casa madre Verizon, che porterà molta liquidità in casa Vodafone, movimentando tutto il settore delle TLC in quello che è già stato definito da alcuni risico, da altri effetto domino e che potrebbe vedere coinvolta anche Telecom Italia, probabilmente nel mirino della spagnola Telefonica. Nel giro di pochi giorni, due avvenimenti di tutto rilievo per il mondo della telefonia. Quali saranno le sorti dell'operatore che fu di bandiera, ancora non possiamo saperlo, e lo stesso discorso vale per Windows Phone. Al momento si conquista solo il 3,5% delle quote di mercato, dominato dal duopolio Samsung e Apple, ma i numeri parlano di una crescita molto rapida. Nel frattempo, che sia un Nokia, iPhone o un Android, una cosa è certa. Allo smartphone i consumatori fanno sempre più fatica a resistere e ormai è possibile trovarne a prezzi anche molto accessibili. E per chi è alla ricerca del cellulare migliore, ma anche a portata di portafoglio, la scelta della tecnologia più moderna va di pari passo con quella dell'offerta più conveniente. Pacchetti, abbonamenti e tariffe speciali a volte possono davvero fare la differenza ed è importante saperli confrontare. Ecco, diciamo che da questo punto di vista io stamattina non vi posso essere molto d'aiuto, per cui mi farò appunto aiutare moltissimo dagli ospiti di oggi. Prima cosa. Seconda cosa, gli ascoltatori non me ne passano una. Ho detto che Steve Ballmer rimarrà in Microsoft per 12 anni, altro che la notizia degli ultimi giorni è stata che invece se ne va e rimane un altro anno, però insomma si farà probabilmente ricordare dato che ha messo la firma su questa grande operazione su Nokia. Terza cosa, voglio accontentare un ascoltatore che ci chiede che bond ha lanciato Enel. Ha lanciato bond subordinati ibridi non convertibili, quindi qualcosa di molto complicato, per 1,7 miliardi di euro, ma l'ascoltatore voglio dire che questa è un'emissione dedicata e rivolta ad investitori istituzionali, per cui è un'operazione appunto che al piccolo risparmiatore non interessa, sono operazioni di riorganizzazione del debito delle grandi aziende che non hanno nessun impatto appunto tra piccoli risparmiatori. Chiusa la parentesi, riapriamo quella appunto del tema di oggi. Luca Salvioli, allora, ieri Nokia ha festeggiato in borsa, è partita con un rialzo, se non mi ricordo male perché l'ho raccontato io, del 47%, poi nel corso della giornata ha guadagnato qualcosa più di 30%, per Microsoft invece negli Stati Uniti non c'è stata una risposta altrettanto positiva, in ogni caso si tratta di un'operazione incredibile, che voi però conoscevate già, sapevate già che sì, sarebbe era, arrivata. Era nell'aria, in realtà già 2 anni e mezzo fa, quando c'è stato l'accordo sulle piattaforme di esclusiva che prevedeva diciamo il sistema operativo di Windows sui telefoni evoluti di Nokia, molti dicevano se la comprano, oppure Steven Hillop, il CEO di Nokia fino a ieri, diventerà il nuovo CEO di Microsoft. Ci è voluto qualche anno, è successo, Microsoft compra il cellulare di Nokia. Diciamo che è una notizia importante e grossa, al di là della cifra dell'operazione, che non è poi elevatissima, sono 5,4 miliardi di dollari contro i 130... Di euro 7 miliardi di dollari. Di euro 7,17 miliardi di dollari, scusate, contro i 130 miliardi dell'operazione di Vodafone dell'altro giorno, quindi è molto più piccola in termini finanziari. Però, come dire, segna la fine di un'epoca, perché siamo tutti cresciuti con i telefoni di Nokia. Nokia era assolutamente il sinonimo di cellulari fino a pochi anni fa. Ce lo stavamo raccontando a microfoni spenti. Diciamo che me li ricordo molto meglio io di voi, perché sono più grande di voi, però effettivamente è proprio così. Diciamo che tutti, ognuno di noi ha maneggiato sicuramente nel corso del proprio recente passato un telefono di questo tipo. Soprattutto in Italia c'era una quota di mercato spaventosa. E poi è successo questo terremoto qualche anno fa con l'arrivo dell'iPhone nel 2007. Io mi ricordo una presentazione di Nokia a Londra in cui facevano vedere la loro prospettiva per gli anni a venire, cioè un telefono sempre più connesso a internet, con i servizi, la possibilità di informarsi, di usare le mappe, quello che poi abbiamo visto succedere. Quindi Nokia c'era, era pronta per affrontare questa sfida. iPhone è stato talmente veloce e efficace nel proporre questa soluzione in maniera semplice agli utenti da spiazzarli, nel senso che Nokia usava questo sistema operativo Symbian, che rispetto all'iPhone e poi Android di Google, che è arrivato subito dopo su vari dispositivi, era indietro qualche anno. Steve Jobs diceva: siamo avanti 5 anni quando ha lanciato l'iPhone. Probabilmente aveva ragione. E Nokia ha fatto fatica, ha avuto bisogno di un accordo con Microsoft, che a sua volta fa molta fatica a entrare in questo mercato. L'unico, il mercato che cresce nella tecnologia è quello di smartphone e tablet, mentre Microsoft è solida nel vecchio mondo del PC, continua a fare 70 miliardi di dollari di ricavi all'anno. Insomma, non è in crisi in termini finanziari, ma è in crisi in termini strategici. Ha bisogno di crescere sul mobile, ha fatto varie esperienze anche molto costose che non sono andate molto bene. Però non trovava la giusta per farla, la strada giusta per fare questa crescita, quindi chiaramente l'occasione di Nokia non ha voluto lasciarsela sfuggire. Esatto, anche perché tu dicevi, ieri ha guadagnato il 40% in borsa, ma gli ultimi anni avrà, insomma, un'azione vale più o meno un decimo di prima, quindi anche in termini finanziari, rispetto anche solo 2 anni e mezzo fa, gli è convenuto molto di più fare acquisizione. Ecco, oggi c'è un aspetto che magari vogliamo sollevare, che è molto importante. Con l'acquisizione di Nokia da parte di Microsoft, però, scompaiono grandi player europei nel settore. Sì, era l'ultimo grande protagonista europeo, soprattutto diciamo sui prodotti. Noi siamo cresciuti, come dicevamo prima, con Nokia, con i telefoni Ericsson, poi Ericsson ha iniziato a fare telefoni con Sony, facendo la partnership Sony Ericsson, adesso li fa solo Sony. Ericsson rimane un grande operatore, ma nella fornitura, nelle infrastrutture, nelle reti. Scompaiono i telefoni di Nokia, quindi oramai la sfida dei prodotti e dei sistemi operativi si gioca tra California, sostanzialmente, diciamo così, West Coast americana, Cina e Corea, perché Samsung e LG sono coreane e i produttori cinesi Huawei, Lenovo e ZTE stanno crescendo tantissimo, quindi possiamo immaginarci che fra 5 anni avremo in tasca telefoni cinesi magari con un sistema operativo americano. È incredibile. Allora, Alberto Mazzetti, SOS Tariffe, lo abbiamo ricordato anche all'inizio, questo è un portale che si occupa di comparare appunto le migliori tariffe in ogni settore. Vi occupate di conti correnti piuttosto che di bolletta appunto dell'energia, del gas e della luce, ma soprattutto siete nati qualche anno fa, ricordiamocelo appunto, perché vi abbiamo invitato molto spesso proprio per comparare le tariffe nel settore della telefonia. Da piccolo imprenditore in un settore come questo, che cosa pensi delle rivoluzioni delle quali stiamo parlando appunto in questa trasmissione? Ma, allora, diciamo societarie prevalentemente, certo, e anche tecnologiche. Vedo un grande vantaggio per gli utenti, nel senso che sono tutte diciamo fusioni, acquisizioni che porteranno sicuramente dei vantaggi sia tecnologici, sia nel caso di Vodafone e Verizon, in termini magari anche di nuove tecnologie per la telecomunicazione, prezzi più accessibili e quindi la possibilità di usufruire di anche nuove tecnologie come ad esempio il 4G a prezzi più abbordabili. Quindi insomma questo è buono per il mercato, anche se avremo la creazione un'azione di giganti della tecnologia, tutto sommato però qualche vantaggio, i vantaggi evidenti ci sono per i risparmiatori, per gli utenti, per i consumatori. Settembre è un mese molto interessante perché sono terminate le ferie, si ricomincia ad andare al lavoro, riaprono le scuole, probabilmente qualche famiglia sta anche prendendo in considerazione la riorganizzazione delle spese della settimana. È un mese interessante anche per quello che riguarda la pianificazione della spesa in tecnologia. Qual è, come dire, l'attività che vedete sul vostro portale in questo momento? Ma allora, settembre sicuramente è uno dei mesi con più fermento in termini di cambio di operatore dell'anno. In particolare le ADSL sono il servizio che è più richiesto in questo mese. Ci sono delle offerte molto vantaggiose in questo periodo in generale, proprio probabilmente anche per la crisi che colpisce il nostro paese e il mondo, e effettivamente sottoscrivere adesso un abbonamento a DSL o anche di telefonia mobile è molto conveniente, perché effettivamente i prezzi non sono mai stati così bassi come in questo periodo. Ecco, ma intese di questo tipo come quella della quale abbiamo parlato appunto partendo dalla nostra trasmissione, secondo te proietteranno le aziende verso ulteriori anche risparmi di costi? Perché naturalmente anche l'operazione Microsoft e Nokia si è calcolato che produrrà risparmi annui per qualcosa come 660 milioni di dollari. Come anche questi risparmi all'interno delle società si continueranno a riverberare appunto sull'utilizzo di queste tecnologie da parte dei consumatori? Sì, naturalmente. Tariffe ulteriormente ancora in ribasso, che già i prodotti costano molto poco. Me lo raccontava proprio qualche giorno fa Marco Lombardo, che saluto, che è il mio assistente, che ha regalato, Marco, lo smartphone al papà. Quanto hai speso? Lo possiamo raccontare? Me lo ricordi? 120 euro, cifre inimmaginabili qualche tempo fa. Sì, infatti questi risparmi sicuramente sarà poi decisione delle aziende se rifletterli in un risparmio per i consumatori, oppure diciamo per fare margini, certo. O magari per innovare, quindi insomma in qualche modo anche l'innovazione la vedo come un vantaggio per il consumatore. Allora ci fermiamo perché abbiamo la prima pausa, c'è un ascoltatore che osserva: con l'unione di colossi viene in mente che per poter continuare le vendite mettano sul mercato prodotti sempre meno interessanti dal punto di vista qualitativo. Apriremo anche questa parentesi, se vorrà, con Luca Salvioli tra poco. Intanto continuate a prenotare i vostri interventi e le vostre osservazioni all'800240024, oppure scriveteci al 349-238-6666, dove Roberto osserva: mi preoccupa la gestione dei dati monopolio ad americani e cinesi. Mi telefono no, chissà chi vincerà. E chissà quante telefonate si sono fatti tra di loro nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi 2 anni, i manager di Microsoft da una parte e quelli di Nokia, per arrivare alla definizione della grande operazione tecnologica appunto che è stata comunicata ieri al mercato. La notizia è quella relativa al fatto che il colosso americano ha rilevato appunto Nokia, il colosso europeo delle telecomunicazioni, per 5,44 miliardi di euro, oltre 7 miliardi di dollari. Finisce, come dice anche il Sole 24 Ore questa mattina, nella sostanza l'era dei telefonini europei. Stiamo cercando di capire il valore di questa operazione, lo spirito di questa operazione, l'impatto sul mercato, ma anche quello che potrebbe essere il futuro impatto tra le necessità dei consumatori che utilizzano tecnologie, telefonini e non solo quest'oggi. 800240024 è il numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi. È pronto Paolo da Macerata. Prima però volevo fare un'osservazione con il collega del Sole 24 Ore, Luca Salvioli, perché ragionavamo sulla forte crescita del titolo Nokia ieri in borsa ad Helsinki, oltre 30 punti percentuali di rialzo, anche se per la verità questa integrazione, questa operazione non verrà effettuata attraverso un'offerta pubblica di acquisto su Nokia, mi sembra. No, esatto, non è un'offerta pubblica d'acquisto. Microsoft finanzia l'operazione con la liquidità che ha, e ne ha parecchia. Le aziende si sono incontrate tantissime volte, ho letto da qualche parte 50 incontri per definire prezzo, e sono aziende partner e molto vicine appunto da 2 anni e mezzo. L'operazione dà fiducia al titolo di Nokia, perché Nokia sono anni dove l'interrogativo era proprio in termini finanziari c'era proprio un problema di cassa, di liquidità. C'è stato qualche trimestre inutile, ma veniva più l'utile da Nokia Siemens, che poi quindi la parte di Nokia legata alle reti, che non alla divisione device. Mm-hmm. Microsoft ha molti soldi, gliene dà, si compra la divisione telefoni e servizi, Nokia resta. Certo, Nokia... e la cosa molto importante è che vengono salvaguardati fino all'ultimo tutti i posti di lavoro. Esatto, esatto. Generalmente operazioni di questo tipo non riescono appunto a portare a casa anche questo obiettivo. Esatto, generalmente no, i dettagli ancora non si sanno, però si parla di 30.000 dipendenti che da Nokia passano a Microsoft. Mm-hmm. Microsoft ne ha 100.000, quindi diventa mm-hmm. veramente gigantesca, però nell'ultima trimestrale di Nokia i dipendenti erano circa 90.000, mm-hmm. quindi ne rimangono diversi, e Nokia si concentrerà, Nokia come marchio, si concentrerà appunto sulle reti. Prima aveva una partnership con Siemens, poi ha rilevato il 50%, poi su ricerca e sviluppo, e infine sul brand HERE, dove c'è dentro l'acquisizione di Navtech e quindi tutte le attività sulle mappe. Microsoft su questo compra la licenza sui brevetti. La domanda che molti ieri si facevano è: ma ci saranno ancora smartphone con il marchio mm-hmm. Nokia sopra mm-hmm. o no? La risposta sembra essere che sui marchi di fascia alta, Lumia, quindi smartphone, e fascia media, Asha, che non sono proprio smartphone ma quasi, insomma, beneficiano di internet e delle applicazioni, il marchio sarà Lumia, Asha e Microsoft. Uh-huh. Probabilmente non si vedrà moltissimo, sarà quello. Nokia rimane su quelli più di fascia bassa, che sono anche importanti sui mercati emergenti. Posso chiederti, ma non so se lo sai, probabilmente magari un'idea ce l'hai sicuramente, quanto costa uno smartphone di Nokia oggi e che tipo di differenza c'è di prezzo rispetto a quelli che noi conosciamo molto di più, perché li vediamo molto di più in circolazione, il Samsung e non solo. Ma il top di gamma, quindi il migliore, quello che offre maggiori servizi, è sempre oltre i 600 euro, e quindi se la va a giocare con Samsung Galaxy S4, iPhone 5, HTC One, che sono tutti più o meno 699-600, poi magari arrivano sconti e se lo prendi con gli operatori riesci a spendere molto meno. Però Nokia già al Mobile World Congress dell'anno scorso a Barcellona, dove annuncia i prodotti dell'anno a venire, aveva presentato dei feature phone, quindi anche smartphone Lumia, con un prezzo medio tra i 200 e 300 euro, eppure offrivano servizi importanti. Si perdeva qualcosa magari come velocità e quindi processore, ma le applicazioni erano le stesse. C'è una tendenza oramai negli smartphone: se uno non vuole proprio avere il modello migliore, può ottenere uno smartphone con tantissimi servizi stando sui mm-hmm. 200 euro. Oggi mi sento molto Enrico Pagliarini nella conduzione di questa trasmissione, anzi se ci ascolta lo salutiamo con affetto. Tutti bravi a fare smartphone o applicazione o programmi, ma qualcuno, e tutti bravi naturalmente a fare anche queste intese finanziariamente stratosferiche, ma qualcuno che faccia batterie che durino, ci dice Marco Alberto Mazzetti. Che ne pensi? Bisognerà fare anche una comparazione sul vostro portale dei telefoni che hanno la batteria con la durata appunto più lunga. Sì, infatti la batteria è un po' il punto debole di tutti i device, anche perché il litio è una risorsa abbastanza scarsa che si sta esaurendo, quindi tra auto quindi non è un dispetto che le aziende fanno, insomma, quello di vendere, bisognerà trovare una nuova tecnologia. Perfetto. Se uno arriva a fine giornata con uno smartphone già può essere contentissimo, mentre con il vecchio Nokia 1100 mi ricordo quattro giorni. Ma cosa di ti ricordi tu che hai 2 anni? No, io me sicuro. Lo ricordo, no? Allora sentiamo Paolo da Macerata, che è in attesa da un po'. Paolo, buongiorno, ci aiuti un po' ad animare questa puntata tecnologica, che come lei sa è un tema che io non pratico frequentemente, quindi le osservazioni intelligenti me le aspetto da voi. Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Io mi chiedevo se dobbiamo essere, diciamo, sicuri che questi prodotti che vengono buttati fuori a getto continuo appunto dalla Samsung, dalla Apple e via dicendo, siano anche, oltre che tecnologicamente molto affascinanti, siano anche tecnicamente resistenti, perché io, cioè, già so che insomma gira voce che queste cose vengono fatte per durare un paio d'anni, no? Ma io ho avuto anche un'esperienza negativa proprio al massimo recentemente. Ho acquistato un S4 approfittando dell'offerta di un operatore che poi era la Vodafone, e dopo 35 giorni tirando fuori dalla tasca il mio bel S4 con tanto di copertina, con tanto di custodia frontale e via dicendo, mi sono accorto che non funzionava più lo schermo. Uh-huh. E il bello è che mi hanno detto che l'ho rotto io, che cioè non capisco come, perché poi è perfettamente sano il telefono. Quindi cioè mi chiedo se non corriamo il rischio di comprare degli oggetti molto belli, ma che poi appunto proprio perché vengono buttati fuori in continuazione per farsi concorrenza l'un l'altro, perché il mio più bello non siano studiati anche per durare un po', perché sa com'è, spendere 500 euro e trovarsi con un niente in mano non è molto piacevole. Paolo, la ringrazio. Adesso commentiamo quello che le è successo e anche il suo punto di vista con i nostri ospiti. Il settore tecnologico è una rivoluzione continua, per cui è vero che sul mercato arrivano prodotti nuovi a getto continuo, addirittura non siamo neanche in grado di poterli valutare perché abbiamo delle novità sotto gli occhi continuamente. E però Paolo giustamente osserva, non è che tutta questa marea di novità, in passato era tutto molto più lento, molto più graduale, rischia di far arrivare sul mercato invece prodotti che, nonostante le fisse anche che aveva Steve Jobs, si puntava tantissimo sulla qualità, era la sua ossessione, in realtà questi nuovi prodotti saranno sempre più scarsi dal punto di vista qualitativo. Chiedo un punto di vista ad entrambi. Alberto Mazzetti, se vuoi comincio da te. Sì, ma nel caso dell'ascoltatore mi sa che è sfortuna, più che altro. Sicuramente la continua innovazione tecnologica fa sì che ci si concentri più sul dare quel qualcosina in più, quella novità in più, che magari costruire un device che resista, non so, 5 o 6 anni. Quindi Luca Salvioli? Sì, io sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore. Ah sì? Nel senso che è vero che duravano di più i prodotti di qualche anno fa, questo è abbastanza, penso che sia condivisibile. È chiaro che però i prodotti che compriamo oggi sono dei computer mignon con delle potenzialità pazzesche, quindi sono anche molto più complessi. C'è anche l'ansia di arrivare sul mercato per primi e di distinguersi, come diceva prima Mazzetti. Su questo io ho visto qualche prodotto negli ultimi anni che, pur di creare quell'effetto wow per distinguersi, perché ormai sono quasi tutti uguali, diciamoci la verità, da un paio d'anni i servizi sono più o meno quelli. Magari uno cerca di mettere una cosa in più, però poi il telefono pesa di più, però poi lo schermo è meno resistente. Questo rischio in effetti un pochettino lo vedo, non su tutti i prodotti, certo. Assolutamente. Diciamo che forse qualche volta la qualità va anche valutata in relazione a quelle che sono le proprie necessità. Magari un prodotto che per me è qualitativamente eccezionale, per l'ascoltatore di poco fa è invece del tutto, certo, come dire, non soddisfacente. Sentiamo invece Roberto da Parma per tornare sul mercato e le problematiche per chi utilizza servizi ADSL e internet a casa. Roberto, cosa le è successo? Sentiamo con Alberto Mazzetti, niente, se possiamo risolvere. Non solo una volta, devo dire che i primi mesi dopo il decreto Le Bersani sulle liberalizzazioni io non ho avuto problema a movimentare quella che era la DSL. Ultimamente, a fronte di una disattivazione con Telecom, mi sono visto per la prima volta applicare anche da Telecom un contributo di disattivazione che sempre è comunque richiesto da Tele2, credo in totale disaccordo con quella che la legge specifica in Italia. Chiedevo come ciò possa accadere e come sia ormai diventato di uso comune una pratica che a tutt'oggi a me sembra fuori legge, o sbaglio? Roberto, la ringrazio. Si ricordiamo il famoso pacchetto sulle liberalizzazioni di Bersani 2007-2008, quelle misure con le quali venne reso tutto più facile il trasferimento di un mutuo, per esempio, da una banca ad un'altra, la chiusura di un conto corrente, la contestuale apertura in un'altra banca. E anche nel settore appunto delle telecomunicazioni si è cercato di incentivare un po' di più il passaggio della clientela da un operatore ad un altro. È vero che appunto la disattivazione da DSL è gratuita, dovrebbe essere teoricamente gratuita. Alberto Mazzetti, cosa sarà successo all'ascoltatore? Allora, la differenza è sottile, nel senso che il decreto Bersani sancisce che diciamo l'utente possa interrompere l'abbonamento a DSL senza il pagamento di penali. Però l'operatore ha la facoltà di richiedere dei costi di disattivazione che effettivamente sostiene per staccare l'utente. Questi costi di disattivazione, ho avuto modo anche di approfondirli. Quanto ammontano mediamente? Ammontano sui 40-50 euro, che sono proprio dei costi per mandare il tecnico Telecom nella centrale a staccare il doppino e eventualmente attaccare quello di un altro operatore nel caso di cambio. Quindi sono in realtà costi di attivazione che quindi l'operatore sostiene all'inizio del ciclo di vita del contratto di un utente, ma che eventualmente ripropone solo alla fine. Tutti questi costi sono però certificati dall'Agicom, quindi se Telecom Italia, Vodafone, Fastweb, Tele2 chiedono un determinato costo, quel costo lì è stato visto con Agicom e sono stati visti i driver di costo che stanno dietro. Quindi ecco, le liberalizzazioni di Bersani hanno cancellato le penali per la chiusura di un abbonamento, di un contratto, ma non i costi di disattivazione, che sono una voce viva, appunto, evidentemente una spesa che l'operatore sostiene, che quindi va naturalmente ad essere poi scaricata sull'ex cliente a quel punto. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Ed eccoci di nuovo a Salvadanaio, che oggi un po' incrocia le tematiche dei consumatori con quelle della tecnologia, le grandi operazioni internazionali delle quali abbiamo parlato in questi giorni. Tra l'altro, Luca Salvioli, noi abbiamo parlato dell'operazione di Microsoft su Nokia, ce n'è stata però anche un'altra molto importante nei giorni precedenti che ha incrociato praticamente anche in questo caso l'Europa con gli Stati Uniti, Vodafone con Verizon. Chi sono questi due attori giganteschi e che cosa hanno fatto? Esatto, sono grandi protagonisti dell'altra parte della telefonia, quelli che ci danno la connettività, che ci fanno fare le telefonate, ovvero gli operatori. Vodafone, ha venduto il 45% della partecipazione alla joint venture Verizon Wireless, quindi negli Stati Uniti, una cifra pazzesca, 130 miliardi di dollari, quindi come numeri assolutamente non paragonabili a quell'altra. Sono tanti soldi. Questa per partecipazione l'ha venduta peraltro alla casa madre, esatto, già di Verizon. Esatto, sì. A Verizon, quindi Verizon si rafforza e infatti entra in competizione con AT&T, che è l'altro operatore grande americano. Oggi sul Sole 24 Ore si dice che sarebbe pronto a una contromossa proprio nei confronti di Vodafone per espandersi in Europa. Un'ipotesi è che possa quindi crescere comprando quote di Vodafone. Vodafone che incassa diversi soldi a questo punto e dovrebbe utilizzarli per espandersi in altre aree, nei paesi diciamo emergenti, rispetto che Stati Uniti ed Europa. E siamo qua tutti in attesa di capire che cosa succederà su Telecom Italia, che mi rendo conto che sullo scacchiere internazionale della delle telecomunicazioni non è un operatore paragonabile a quelli che abbiamo citato poco fa, ma in realtà insomma la sua quota di mercato ce l'ha, c'è Team Brasil, insomma ci sono tante attività interessanti di Telecom e poi soprattutto c'è la scadenza di un patto appunto nei prossimi mesi, qualche azionista di peso che uscirà dalla compagine societaria, vedremo anche chi vorrà prendersi questa partecipazione. Giuseppe da Napoli, buongiorno. Buongiorno dottoressa Rosciani. Buongiorno a lei, ci dica. Senta, allora innanzitutto la ringrazio per questa opportunità. Prego. Le faccio i complimenti ovviamente per la trasmissione, io la seguo da tempo anche in altre trasmissioni di cui non faccio il nome logicamente. Quali altre? No, perché lo faccio il nome, ma io sono sempre qua, quali altre trasmissioni? Ci mancherebbe. Giuseppe, andiamo alla domanda perché voglio dar spazio anche ad altri suoi colleghi, grazie per i complimenti. Allora, non so se la domanda è per farla è pertinente o meno. Mi pare di sì dalle anticipazioni che vedo, Allora, volevo sapere semplicemente quali scenari si possono delineare a medio termine per noi piccoli investitori sia di Nokia che di Microsoft. Ottimo Giuseppe, la ringrazio. Allora ridò il microfono a Luca Salvioli. Su Nokia qualche considerazione l'abbiamo fatta, perché il balzo del 34% di ieri ha dell'incredibile, ma il titolo era davvero ai minimi termini. E Microsoft invece come se la passa? Microsoft, diciamo che gli anni del boom di Microsoft sono abbastanza alle spalle. Ieri non è andata bene perché c'è molto scetticismo sulla capacità di Microsoft di adattarsi a questo nuovo mondo, nel senso che è attesa questa prova da un po' di anni. Windows 8, nuovo sistema operativo, era una grande promessa per entrare nel mondo dei tablet. È stato accolto, insomma i numeri non sono terribili, i numeri di adozione di Windows 8, anzi, però non tutti i consumatori sono stati soddisfatti perché è un modello molto d'avanguardia, soprattutto per l'utente tradizionale. Adesso c'è l'8.1 che risolve un po' queste cose. Sul fronte cellulari, tantissimi investimenti, anche tablet, investimenti pubblicitari pazzeschi su Surface, che però non è stato un successo, diciamo così. Vediamo con Nokia a questo punto. Certo è, diciamo che la fusione tra due, tra virgolette, outsider di questo nuovo mondo, perché hanno il 3% del mercato e vengono dagli anni 90, dove invece erano dei grandi leader. Sono tanti punti di domanda. Probabilmente quello che penso io è che per Nokia sia l'esito migliore, perché si era parlato anche di un'acquisizione da parte di Lenovo, il grande colosso cinese dei PC e degli smartphone. Invece il fatto che comunque venga comprata da Microsoft, con cui c'è un rapporto da 2 anni e mezzo, getta le basi davvero per la creazione di un terzo polo contro Samsung e Apple. È una sfida difficile, è molto difficile lanciare una previsione, però credo credo che ci siano delle competenze importanti. Competenze importanti, sicuramente tutte le capacità per poter sviluppare tecnologie nuove e prodotti interessanti, poi bisognerà vedere anche come potranno andare all'assalto i mercati emergenti, perché diciamo che quelle sono le frontiere sulle quali bisogna tenere alta l'attenzione. Assolutamente, voglio aggiungere una cosa, quello che secondo me ancora Windows non è riuscita a fare sul mobile è portare le applicazioni che è riuscita iOS e Android, perché oramai appunto al di là dell'hardware conta sempre di più quello che riesce a mettere dentro servizi utili o divertenti per i consumatori. Windows ancora su questo è stata un po' lenta, molte applicazioni più cool del momento non ci sono, secondo me su questo si gioca una parte della sfida, l'altra è sul fatto che oramai gli smartphone sono degli elementi di lifestyle e il brand Nokia e Microsoft al momento non sono, non fanno molto sognare i consumatori. Allora, bisogna lavorare molto su questo. Ancora un paio di ascoltatori, poi ci avviciniamo alla chiusura. Bruno da Verona, buongiorno, rapidissimo, grazie. Buongiorno Deborah. Beh, io ho per il traffico voce un Nokia C2 da 100 euro più o meno, e poi ho un S2 e poi ho anche un iPad. Qualcos'altro no, Bruno? No. Ma beh, non si perde dietro a tutto questo. Non c'è altro di disponibile, però come diceva anche il suo esperto un attimo fa che ascoltavo, io non capisco questo discorso di dire ma l'Europa perde Nokia, perché i Nokia per il traffico voce è da diversi anni che li ho e ciclicamente ogni 3 anni lo accendi alla mattina, non ha preso botte e bisogna contattare il centro perché non va più il Nokia e ti dicono che tanto ripararlo costerebbe 150 euro comprartene uno nuovo. Certo. Probabilmente gli farà tanto bene a Nokia che ha perso il treno, ma non diciamo che l'Europa perde tutto, perché anche Kodak, e la storia la conosciamo, ha perso il treno delle digitali e ha fatto la prima digitale. Adesso sono usciti anche dalla Chapter 11, se non mi ricordo, anche Kodak negli Stati Uniti si sta rimettendo in carreggiata. Non lo so se è questione, come dire, individuale. Io ho avuto qualche Nokia nella mia vita e devo dire che sono stati indistruttibili. Le batterie duravano e li rimpiango anche un po', per la verità, quei telefoni, anche se oggi abbiamo a disposizione tutt'altro. Sentiamo l'ultima osservazione di oggi, Riccardo appunto dalla provincia di Macerata, poi andiamo verso le conclusioni. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, salve. Praticamente questa è obsolescenza programmata, quello che si chiama obsolescenza programmata. È vero, sì, ci abbiamo dedicato anche un programma sugli elettrodomestici, se lo ricorda, forse anche ha sentito Salva Danaio. Esatto. Io riallacciandomi a quello che diceva l'esperto, il mio conterraneo di Macerata, dico che ormai sì, la concorrenza più che altro si fa sia sulle applicazioni sia sull'assistenza e la garanzia del prodotto. Ormai la tecnologia è al passo per tutti, i prezzi, anche Samsung lo fa vedere, sono uguali a quelli di Apple. Io sono un fan di Apple da tutta la vita, perché penso che Android sia un clone di iOS, ma questa è un'altra storia. Io voglio fare un esempio personale, dicendo appunto un conterraneo, diceva che si è rotto, gli hanno detto che... Riccardo, non la sentiamo più, non so che cosa stia succedendo, ma in ogni caso prendiamo appunto solo la prima parte della telefonata, anche perché non riusciamo. Se vuole scriverci, gireremo le sue considerazioni appunto ai nostri ospiti, che saranno sicuramente più in grado di commentarle rispetto a me. Detto questo, beh sì, certo, oggi anche la concorrenza si gioca molto sull'assistenza che gli operatori sono in grado di dare. Credo che questo sia un tema fondamentale anche quando si sceglie, magari utilizzando SOS tariffe, un nuovo abbonamento. Alberto Mazzetti, andiamo verso la chiusura. Io ho a casa telefonia fissa e internet, però ritengo di pagare un po' troppo con l'operatore che mi garantisce appunto questo servizio. Cosa posso fare per pagare un po' meno? Ma sicuramente si negozia con l'operatore che si ha e ci si informa sui prezzi che ci sono in giro, che offrono gli altri operatori. Se mi dovessi spostare presso un altro operatore, appunto, è facile oggi, un po' più magari di un anno fa, di 2 anni fa, il meccanismo di trasferimento? Assolutamente, l'Agicom comunque ha emanato delle delibere che obbliga gli operatori a rispettare dei tempi certi per il passaggio e non fare insomma giochetti o strani inghippi. Infatti, o magari applicare degli oneri stravaganti appunto se si mette in atto questo procedimento. Allora, noi stiamo andando verso la chiusura, io vi ringrazio per essere stati con noi, abbiamo messo a disposizione degli ascoltatori di Salva Danaio un tema inconsueto, ma è bene guardarsi attorno e appunto monitorare quello che succede, perché poi appunto ci sono gli effetti anche diretti sulle nostre abitudini. Ricordo solo per concludere che nei prossimi mesi cominceremo una collaborazione un po' più costante con SS Tariffe, ci daranno appunto i ragazzi di questa azienda molte idee su come spendere meno per la bolletta della luce, per la bolletta del gas e non solo per il telefono e per tanto altro. Quindi antenne dritte, grazie a tutti, ci sentiamo domani, buona giornata.